Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Ricominciamo una nuova settimana e parliamo di casa. La casa che è il bene materiale più prezioso che le famiglie hanno, anche se pare che da alcune ricerche non si fa tutto il necessario per proteggerla dagli imprevisti che possono capitare. In genere però si tende a trascurare la copertura assicurativa della casa, si tende a fare quella strettamente necessaria, perché è piuttosto diffusa la convinzione che tanto l'assicurazione trova sempre qualche scappatoia per non risarcirci, che sono spese inutili, che tanto alla nostra casa non capiterà mai niente di grave. Poi qualche volta questo può invece capitare, allora siamo sprovvisti. Oggi di questo tema si occupa anche il Sole 24 Ore. Nell'articolo "Più ombrelli sui rischi della casa" si parla delle caratteristiche delle polizze assicurative che offrono la copertura nell'eventualità di danni all'abitazione, ma come ci si orienta in questo campo? Come fare la miglior copertura assicurativa possibile per la propria abitazione, perché questo equivale anche a proteggere la propria famiglia? Quali sono i rischi più diffusi da cui è bene non dimenticarsi di tutelarsi e coprirsi dal punto di vista assicurativo? Oggi ne parleremo con i nostri ospiti. Stefano Pace, responsabile area retail piccole e medie imprese per il gruppo Generali, che saluto in collegamento da Trieste. Dottor Pace, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Grazie di essere con noi, anche a Giovanni Bragolusi, partner della società di consulenza Deloitte, responsabile dell'area assicurazioni. Benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione per i vostri interventi, per le vostre domande. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Note dolenti stamattina guardando alla borsa, ci siamo sicuramente abituati, ma insomma, dopo quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, in realtà almeno cominciamo anche a sperare che il peggio sia passato. Non è così, a giudicare da quello che sta accadendo stamattina in borsa, in un mercato che guarda quello che è accaduto di nuovo venerdì sui mercati finanziari, mercati che sono stati fortemente penalizzati dal calo pesantissimo del prodotto interno lordo americano, -6%, l'intervento dello Stato su Citigroup, e questa mattina ancora una volta le vendite stanno piovendo fortissime sul comparto bancario, finanziario ed assicurativo. Parigi sta perdendo il 3,37%. 7%, Francoforte il 2,82%, Londra -3,84%. I titoli che stanno penalizzando i listini sono proprio quelli del settore bancario e finanziario. HSBC -16% a Londra. Il gruppo ha annunciato un aumento di capitale probabilmente da qualcosa come 14 miliardi di euro. E poi abbiamo a Parigi lo stesso, un calo fortissimo su tutti i titoli del settore: BNP Paribas -9%, Société Générale -7%, Crédit Agricole -6,78%. Non la scampa Francoforte, che lo stesso vede i titoli del settore tutti in forte calo, ma non solo, anche il comparto automobilistico sta andando in maniera piuttosto negativa. Piazza Affari -4% per l'S&P MIB, peggior titolo, peggior listino d'Europa, con i cali che sono particolarmente concentrati su Unicredit -6%, Ubibanca -6%, Seat pagine gialle -6%, A2A -6%, questo titolo era partito con un ribasso del 9%, un po' recuperato adesso, Intesa -6%, Popolare di Milano -5%, Banco Popolare -5%, Unipol -5%, Enel -5%, qua insomma non la finiamo più. Direi che possiamo allora dare un taglio al racconto della borsa, magari solamente andando a curiosare fra i migliori titoli della giornata: Fiat +1,40%, Mondadori +0,9%. Lasciamo i mercati finanziari, andiamo invece al tema di questa mattina. Oggi parliamo della protezione della nostra casa. La casa è da sempre considerata uno dei beni più preziosi. Tuttavia, sono ancora pochi gli italiani che pensano a proteggere la propria abitazione dai rischi legati alla vita quotidiana, come scoppi dovuti a fughe di gas, eventi atmosferici, incendi o furti. Il panorama delle scelte assicurative per tutelare la propria casa è infatti molto ampio. Si va dalle polizze tradizionali, come furto e incendio, a quelle che coprono i danni causati da animali domestici, da quelle studiate appositamente per i dispositivi high-tech alle assicurazioni personalizzate in base alla metratura della casa. Il costo medio è di circa 165 euro all'anno, con prezzi che oscillano da 150 euro per una protezione di base fino a 600 euro per i prodotti più completi. Tutte le offerte hanno però un punto in comune: l'approccio modulare. Cosa significa? Che il cliente può decidere di difendersi soltanto da determinati rischi come furto, incendio o danni naturali. Ecco perché è importante valutare il proprio profilo, individuare la tipologia di polizza più adatta e capire il loro funzionamento. Per quanto riguarda l'indennizzo vero e proprio, esistono due formule principali. La più diffusa è quella a rischio assoluto, che prevede il risarcimento del danno subito in seguito al furto sulla base di un massimale. Ciò significa che nel contratto è stabilito un importo fisso di rimborso, indipendentemente dal valore dei beni assicurati. Accanto a questa formula esiste anche quella a rischio relativo, in cui nella polizza è compreso sia il valore assicurato, che è il massimo dell'indennizzo ottenibile, sia il valore delle cose assicurate. Il danno indennizzato, in questo caso, è inferiore al danno subito dall'assicurato. 800 24 0024, numero verde per i vostri interventi, per le vostre domande. Vedo già numerosi ascoltatori con dei quesiti anche piuttosto specifici. Speriamo di non mettere in difficoltà i nostri interlocutori di questa mattina. Comincerei però con un osservatorio generale, quello della società di consulenza Deloitte, Giovanni Bragolusi. Così a microfoni spenti facevamo un po' il punto della situazione, anzi telefonicamente prima della trasmissione, esatto, su quella che è la spesa pro capite delle famiglie italiane, dell'italiano medio nel settore assicurativo per la propria abitazione, quindi per la protezione della propria casa. Diciamo che l'italiano non ama spendere molto per tutelarsi da imprevisti che possano danneggiare l'abitazione, i vicini e quindi anche il proprio nucleo familiare. Certo, più in generale diciamo che gli italiani non hanno una grande propensione alla spesa assicurativa. Quello che è la propensione alla spesa, siamo circa su, escludendo l'RC auto che è obbligatorio, diciamo siamo sui 260 euro pro capite. Come diceva prima, se andiamo a un range di un costo appunto medio di una copertura a casa 165, vediamo che sicuramente i margini di crescita della sensibilizzazione che si può fare rispetto all'importanza di avere delle coperture assicurative è molto importante. Ecco, oltre diciamo all'indagine sulle cifre, vi siete dati anche una spiegazione rispetto a questa scarsa attitudine all'assicurarsi da parte delle famiglie? Abbiamo fatto un confronto con i vari paesi europei, quindi abbiamo assolutamente Regno Unito siamo circa su 870-900 euro come spesa pro capite, quindi tre volte tanto. Sicuramente è basata su una percezione dell'assicurazione, dove in Italia non viene ancora vissuta, come diceva lei all'inizio, come una gestione oculata proprio anche dello stesso patrimonio, perché se effettivamente io riesco a avere un patrimonio e a coprirmi da quelli che possono essere degli eventi diciamo spiacevoli che possono capitare nel corso della vita, la compagnia e quindi una copertura assicurativa assolutamente mi permette di non intaccare il mio patrimonio. Mm-hmm. Quindi è assolutamente strategico, assolutamente importante avere coperture assicurative. Occorre comunicare di più, nel senso che le compagnie hanno una grandissima sfida, che è quella di far comprendere in maniera più diretta il valore aggiunto che assolutamente una compagnia dà. C'è un luogo comune, no? Soprattutto sull'RC auto, se pensate il 53% dei premi è RC auto, quindi, e quindi l'opinione si forma sull'RC auto. In realtà ci sono coperture dalla responsabilità civile sia per la casa ma anche in generale, la tutela legale, che sono assolutamente delle coperture importanti, delle coperture che dovranno coprire un ruolo sempre più rilevante nel portafoglio di ogni singolo assicurato. Dall'altra parte occorre che anche la compagnia stessa impari a conoscere di più il cliente. E infatti, poi magari su questi punti ci focalizzeremo anche nel corso della trasmissione. Stefano Pace, responsabile area danni retail, piccole e medie imprese per il gruppo Generali. Voi avete qualcosa come 500.000 di assicurati, si può fare sicuramente di più in Italia? Sì, abbiamo qualcosa come 500.000 di assicurati con le polizze di abitazione, si può fare di più, bisogna dire che il mercato si sta muovendo, che è un mercato che anche rispetto a quella che appunto era la media europea si sta evolvendo negli ultimi anni, sicuramente per merito di una maggiore sensibilità ma anche di un'offerta più articolata. Ecco, credo che sia proprio questa la grande variazione, ormai casa si identifica con famiglia e quindi le coperture sempre più articolate appunto che vengono offerte dalle compagnie comprendono non più soltanto le coperture dei muri, insomma, ecco come si diceva una volta, ma abbiamo delle vere e proprie polizze multirischio che oltre a coprire l'abitazione, gli effetti domestici e quelli che possono essere tutti i danni al patrimonio, coprono anche la responsabilità della famiglia, la responsabilità quindi della conduzione e non soltanto della proprietà ma anche della conduzione degli appartamenti, ma coprono anche l'attività familiare. Poi a questo ovviamente si aggiunge la copertura, le coperture base, no? Quelle che si offrivano prima, ma che anche queste hanno una grande evoluzione, quindi le coperture del furto, i danni da rapina. L'ambito danni diciamo è molto ampio. Molto articolata e poi adesso sempre di più i danni da assistenza, addirittura assistenza idraulica, assistenza dell'elettricista, per cui veramente una polizza a 360 gradi che offrono una copertura completa e veramente molto articolata al bene casa, ma direi anche più estesa quella che è il possibile danno alla proprietà e anche alla responsabilità familiare. Tra l'altro non ci dimentichiamo quante famiglie italiane sono diventate negli ultimi anni proprietarie, per cui questo forse dovrebbe invogliare un po' di più a tenere in un certo modo l'abitazione per ovviamente tutelarci, ma soprattutto per evitare poi che eventuali danni che possono capitare alla nostra abitazione si ripercuotano anche tra chi ci abita vicino, oltre che all'interno delle mura domestiche. Però Pace, questo momento dal punto di vista economico-finanziario è molto delicato, non facciamo altro che parlare di famiglie in difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Secondo lei questo è un momento buono anche per sensibilizzare l'italiano medio intorno ad un tema come quello che affrontiamo stamattina a Salvadanaio? Beh, direi di sì, perché guardi, io parto dalla premessa che lei ha fatto, no? Lei prima, nella premessa dell'apertura della trasmissione, purtroppo ha citato uno scenario che è lo scenario di tutti i giorni, è uno scenario di grande incertezza. E proprio da questo scenario di grande incertezza io credo che gli ascoltatori devono pensare a darsi certezze laddove possono, laddove possiamo fare noi delle scelte. Credo che qui invece le certezze ce le dobbiamo dare. Come dire che in questo è il momento invece per dare le coperture assicurative a quelli che sono i beni che abbiamo costruito in una vita, ecco, e quindi credo proprio che in questo momento bisogna focalizzarsi su quello che si può fare, che possiamo fare noi, e anche delle cose non poi tanto piccole come dare appunto sicurezza al bene principale che è la casa, che è la famiglia, credo che in questo momento vadano fatte anche a costo di qualche sacrificio sicuramente difficile. Ma credo che le compagnie debbano fare il loro mestiere per venire incontro invece a queste esigenze, che sono anche esigenze ovviamente di avere dei costi in questo momento particolarmente accessibili. Ecco, no, tra l'altro anche perché voglio dire, io credo che in termini generali chi di noi non è interessato alla protezione della propria abitazione, di conseguenza del proprio nucleo familiare, del proprio bene materiale, lo dicevamo, la casa è in assoluto il bene più prezioso in questo momento, basti vedere che corsa c'è stata l'acquisto negli ultimi anni. Poi bisogna vedere però la questione che risvolti ha in termini pratici, quindi quanto possiamo ragionevolmente spendere per proteggerci al meglio, qual è l'offerta che troviamo sul mercato e come possiamo anche instaurare un dialogo costruttivo con la compagnia di assicurazione. Allora, siccome adesso a noi interessa entrare molto nei termini concreti della questione, chi più concreto è del nostro ascoltatore medio, e allora io comincio proprio a sentire i nostri amici che ci seguono da casa all'800240024. Continuate pure a prenotare i vostri interventi. Vorrei cominciare con Andrea da Cesena. Buongiorno. Andrea, buongiorno. Io volevo fare una domanda un po' di riflesso sull'assicurazione, perché noi nel condominio abbiamo un'assicurazione, diciamo, fatta dai proprietari attraverso l'amministratore. Sì. Però la mia domanda era questa, cioè come possiamo fare prevenzione, cioè come possiamo essere sicuri che tutti facciano ad esempio la pulizia della caldaia con regolarità, abbiano gli impianti a posto? Perché poi quando è successo il danno è successo. Lo so Andrea, sa, anche lì ci sono delle normative piuttosto precise che impongono anche una manutenzione della caldaia, per esempio se si ha l'impianto ovviamente individuale e autonomo, quindi voglio dire lì c'è anche un fattore di responsabilità individuale che speriamo i suoi colleghi condomini abbiano a cuore. Però non so, Stefano, Pace, ovviamente il nostro ascoltatore dice bisogna, come dire, sensibilizzarci anche in maniera individuale intorno a questi temi, che è un po' il tema da cui siamo partiti. Dottor Pace, mi sente? Sì, la sento. Allora, lì abbiamo già iniziamo a entrare un po' più nello specifico. Allora, c'è la casa come bene individuale, è la casa come bene collettivo, no? Quindi quando parliamo dei del condominio, no? Quindi abbiamo delle polizze che garantiscono non soltanto la singola abitazione, proprietà appunto di un singolo proprietario, ma un condominio e quindi complessivamente questo bene. Diciamo che le compagnie di assicurazione più che imporre obblighi tendono a premiare quelli che sono i comportamenti virtuosi. Ecco, per cui nell'ambito dell'offerta globale del mercato assicurativo parecchie compagnie tendono a premiare l'osservanza della legge, come dire, se il condominio effettua determinate manutenzioni ci possono essere degli sconti. Ecco, questo è qualcosa che si trova non in assoluto sul mercato, ma delle compagnie premiano questi comportamenti virtuosi. No, tra l'altro, no? mi stavo così un po' interrogando sulla natura del quesito del nostro ascoltatore di Cesena, che probabilmente, essendo sensibile intorno alla manutenzione del caldaio, forse ha il dubbio che magari qualche vicino di casa non si comporti correttamente in questo senso, e allora lui per esempio può attivare una protezione per sé. Noi abbiamo il dubbio che l'appartamento accanto non sia, come dire, non abbia una manutenzione regolare, corretta, e quindi, che ne so, abbiamo magari paura che prima o poi un rubinetto del vicino ci inondi il nostro di appartamento. Andrea, può proteggersi da questo, secondo lei? Assolutamente, allora, ma infatti questa è la differenza un po' tra la polizza collettiva e la polizza della singola la polizza del singolo proprietario. La polizza, la cosiddetta globale fabbricati, è la polizza che garantisce appunto il condominio. Questa polizza però non garantisce per esempio gli effetti domestici, garantisce la responsabilità del condominio verso i singoli condomini, non garantisce per esempio tutto quello che è il danno che si può invece avere all'interno della propria abitazione per fatti non di responsabilità altrui. Quindi il consiglio è di integrare sempre queste polizze, che sono doverose ovviamente per l'amministratore, di integrarle sempre con polizze a protezione del bene personale. E poi insomma in assemblea di condominio una bella lite su questi argomenti, sono sicura che non manca mai. Dottor Bragolusi, lei che idea si è fatto rispetto alla considerazione che ha fatto l'ascoltatore di Cesena? In realtà secondo me c'è chi una certa sensibilità sull'argomento ce l'ha, e non solo guarda quello che succede in casa propria, ma si guarda anche intorno e guarda e scruta in maniera un po' dubbiosa anche nel comportamento dei vicini. Sì, diciamo che l'argomento, più che lui chiedeva giustamente delle coperture che riguardano un condominio, e qui nasce, se guardiamo il contesto della domanda, era un attimino fuori, no? dall'ambito copertura o non copertura, sì, eccetera, però è molto importante. Ecco che qua gioca un ruolo fondamentale quello che è la compagnia, l'agente. Io faccio l'esempio mio personale, ho un agente fantastico che proprio quando io ho voluto fare le coperture, lui mi ha fatto, dice, mi fai un'analisi del portafoglio, e mi ha detto la prima cosa, mi dai la polizza del condominio. Però lei ha un potere contrattuale forse forte per il tipo di lavoro che fa, conosce molto bene il settore, non siamo tutti così. Quello infatti, chi si è attivato è stato l'agente, e mi ha stupito me stesso, cioè io sono stato stupito perché lui mi ha detto mi dai, io ho detto ma perché? E mi ha spiegato, dice guarda, proprio esattamente questo discorso, per dirti la polizza del condominio ha un certo tipo di copertura ma non ne ha delle altre. Ecco allora che lui ha colmato una mia mancanza, una mia non conoscenza. Ecco il ruolo fondamentale di il cliente, no? Chiede, la persona di strada chiede di essere guidata. Il ruolo delle compagnie in questo è fondamentale, il ruolo di sensibilizzare l'importanza, perché questo signore, se comprende quanto è importante, lui è partito da una polizza condominiale, ma se gli venisse detto guarda attenzione, ma devi giustamente, come diceva anche il dottor Pace, devi fare attenzione a questi altri tipi di rischi perché non sei coperto. Ci attorniamo nella seconda parte di Salvadanaio su tutto questo e cerchiamo di capire davvero come si può costruire allora un dialogo costruttivo, come dicevamo anche in apertura, con l'agente delle assicurazioni, che molto spesso viene percepito come quello che ci vuole appioppare la polizza e basta, ovviamente anche per poter maturare evidentemente il suo reddito, però non è sempre così. Ci sono dei fior di professionisti sul mercato che operano in maniera assolutamente corretta e trasparente. Allora noi stamattina, trasparente, vi daremo anche tutte le dritte per poterlo riconoscere. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina stiamo parlando di tutte quelle protezioni per la sicurezza della nostra abitazione, del nostro nucleo familiare, come fare ad intavolare anche una giusta trattativa con la compagnia che dovrebbe seguirci in questo, e soprattutto quali sono anche gli infortuni, gli incidenti più frequenti che possono capitare nella casa e quelli dai quali allora forse è meglio sensibilizzarsi per un'eventuale protezione. Tra l'altro vedo anche molti messaggi al 349-238-6666, molto interessanti questa mattina. Andrea da Padova ci racconta: incredibile, 10 minuti fa ho chiesto un preventivo per l'assicurazione di casa, poi accendo la radio e voi ne parlate. Potete dire quali sono le voci principali da assicurare? Le faremo fare magari, Andrea, proprio un preventivo in diretta questa mattina. Ma poi un altro ascoltatore, Fabio, dice: assicurato per danni meteo, poi quando succede, se il danno è di 10.000 me ne danno 8.000 con le solite scuse. Queste sono anche un po' come dire, le perplessità sulle quali ovviamente focalizzano l'attenzione le famiglie che magari dovrebbero assicurarsi. C'è un po' di così sfiducia anche intorno al comportamento delle compagnie, che le tiene lontani anche dalla protezione. E poi vedo molti ascoltatori che invece sono terrorizzati dalle calamità naturali, terremoto e alluvione. Allora sentirei Luca da Viterbo su questo. Luca, buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto. Grazie. Volevo notizie a proposito dell'assicurazione sul terremoto, perché so che sono stati fatti dei passi avanti, anche se in Italia non mi risulta che nessuno assicuri gli appartamenti contro il terremoto. Vive in una zona a rischio, Luca? Penso di sì, ma non più di tanto. La mia è una... Però il nostro è un po' un paese che così ogni tanto qualche scrollatina la subisce, la riceve. Sì, so che sono stati fatti dei passi avanti, ma non c'è nessuno che in effetti... Ma lei, a parte la preoccupazione per il terremoto, Luca invece a casa sua è protetto, assicurato? Ma, come si comporta? Sono delle polizze generiche che non sono specifiche per niente dei rischi che di cui state parlando. Però mi interessa l'altro tema. Vabbè, andiamo... sarebbe magari un accessorio di una polizza più completa. Certo, Luca, la ringrazio per la sua considerazione. Stefano Pace, ha sentito? Prima del proprio ambito domestico ci si preoccupa un po' di quello che è invece l'evento naturale, mi pare di capire anche da molti messaggi che ci arrivano. Che ne pensa? Beh, penso che abbiano messo il dito sulla piaga. nel senso che gli ascoltatori hanno fatto emergere un problema veramente grande. Diciamo, l'Italia è un paese che ha particolari problematiche sia per il terremoto che per l'alluvione, per quelli che sono i grandi possibili eventi negativi, e non ha una copertura per i rischi, non ha coperture assicurative per i rischi terremoto, alluvione, franamenti, insomma, le cosiddette catastrofi naturali. Non le ha perché l'offerta assicurativa da sola non è in grado di avere il capitale sufficiente per coprire questo tipo di eventi, ovviamente in modo diffuso. Ecco. Mm-hmm. Poi esistono magari delle possibilità di coperture molto molto limitate, ecco, si trova qualcosa sul mercato, ma in genere questi tipi di rischio non sono coperti, non lo sono perché proprio non c'è capitale sufficiente. Allora, laddove queste soluzioni sono state trovate in una così unione virtuosa tra pubblico e privato. E anche l'Italia ci ha provato, perché credo che almeno 2 o 3 delle ultime finanziarie contenessero dei progetti di legge in tal senso, però poi alla fine le complessità di questo tipo di, diciamo, di coperture non sono state in grado di trovare soluzioni, e queste le complessità. Spero che non ci si arrenda, ecco. Io credo che poi ci sia un lavoro su questo, le compagnie di assicurazione, complessivamente l'associazione delle imprese sta portando avanti una serie di studi, sono stati fatti dei grossi passi avanti, se non altro negli studi di quelle che possono essere così le zone esposte, no? Le famose aree che lei prima ha chiesto subito. Se in che zona abito, per esempio, sono originaria di Ancona, so che ho qualche problema in quell'area là, per cui no, tra l'altro sto accantonando per un attimo la questione terremoto, visto che quello a cui stiamo assistendo oggi invece è un altro bel terremoto finanziario. Vi volevo leggere una notizia arrivata poco fa sulle agenzie, che America International Group, il più grande gruppo assicurativo americano, riceverà un terzo pacchetto di aiuti fino a 30 miliardi di dollari del governo americano, lo sostiene Bloomberg. Il gruppo assicurativo potrebbe richiedere ulteriori aiuti se i mercati non si stabilizzano, e allora così abbiamo la sensazione che dovrà per forza richiederli. Giovanni Bragolusi, rispondiamo anche all'ascoltatore ad Andrea da Padova che dice sta chiedendo preventivi per assicurare la sua casa. Quali sono le principali voci da assicurare? Che indicazioni gli possiamo dare, piuttosto pratiche in questo senso? Insomma, visto che lei ci ha già raccontato della sua esperienza personale, del suo rapporto col suo assicuratore. Vabbè, sicuramente diciamo di rivolgersi a un professionista e le compagnie si avvalgono sicuramente. Magari non solo a uno, intanto cominciamo a dire che forse è il caso che si faccia fare un po' più preventivi e poi vedere, valutare se l'offerta più bassa, che generalmente è Risparmio che andiamo cercando, corrisponde magari al miglior servizio possibile, perché ovviamente c'è il luogo comune che ciò che costa meno in realtà viene parametrato al premio, però bisogna stare anche attento a quelli che sono i capitali di copertura e i tipi di servizi che vengono offerti. Io trovo molto valido quelle coperture assicurative che prevedono quindi la messa a disposizione di servizi, quindi banalmente sempre sull'esperienza vissuta, cioè subire un furto come ho subito io, trovarmi una porta sfondata non è piacevole se ti capita soprattutto durante un weekend. Ecco che la copertura che avevo ha messo a disposizione quindi chi mi rimettesse sulla porta, una guardia giurata che quindi mi, tra virgolette, le ha presidiato l'appartamento durante la notte. Esatto. Mi dava la serenità, e quindi ecco che allora io ho apprezzato anche molto il valore aggiunto che quel tipo di servizio offerto dalla compagnia veniva dato. Quindi non dimentichiamoci di anche fare un po' attenzione, perché queste esigenze, queste sensibilità nascono solo quando poi si sono vissute certe situazioni. Fare attenzione non solo a una copertura monetaria, ma anche la possibilità in certe situazioni, nel weekend, quando capitano tutte queste cose, di avere a disposizione dei professionisti, e che le compagnie mettono a disposizione, secondo me è un grande valore aggiunto, perché in quel momento avere la copertura dei soldi, che però mi poneva comunque dover affrontare un'infinità di problematiche che non ho affrontato. Ecco, questa è l'attenzione, quindi la gestione anche del cliente, quindi focalizzarsi sicuramente furto, che sono incendio eccetera, certo, ma anche un'attenzione al servizio che viene messa a disposizione, che a volte. E poi è chiaro che tutto dipende molto anche dal posto in cui si abita, dal tipo di abitazione che si ha, per cui è chiaro che un piccolo appartamento avrà determinati rischi, uno più grande, una villetta che, come dire, è situata in un posto isolato, ne avrà altri, per cui Andrea, è chiaro che gli aspetti da prendere in considerazione sono molteplici. Allora, Fabrizio della provincia di Milano, anzi no, sentiamo anche Massimiliano, povero, perché sta aspettando, è la prima telefonata arrivata questa mattina, io lo sto facendo aspettare da un sacco di tempo. Massimiliano, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io telefono per un'informazione. Dunque, lavoro per una società francese che produce coperture per piscina in policarbonato e alluminio. Sì. Dunque, a Milano, in Lombardia ci sono state delle grosse nevicate. E delle grosse, mi scusi Massimiliano? Nevicate. Sì, sappiamo bene. Mese di gennaio. E dunque, in Francia questa tipologia di coperture rientra nella multi-risk dell'abitazione, o si possono inglobare con una cifra mensile di circa 10 euro. Dei clienti mi dicono che questa tipologia di coperture in Italia vengono assicurate solo per la responsabilità civile. Io volevo sapere se invece c'era la possibilità di assicurarle anche per quelli che sono eventi atmosferici. Dato che poi oltretutto queste coperture hanno un costo. Infatti. Noi le assicuriamo, mi perdoni, l'ultima cosa, noi le assicuriamo come società a venti che non superano i 100 km orari e a un peso di 45 kg per metro quadrato, oltre chiaramente no. Massimiliano, io la ringrazio per la sua domanda, un ambito particolare che esula appunto dal tema che trattavamo questa mattina, la famiglia, però insomma Massimiliano in realtà fa questo tipo di lavoro, per cui è interessato a capire anche come tutelare al meglio evidentemente il proprio ambito professionale. Allora, vedo anche altri messaggi piuttosto interessanti. Ci dite qualche cifra su quante richieste di rimborso vengono effettuate in percentuale alle polizze? Dottor Bragolusi, è una cifra difficile da poter sicuramente dare. Sì, penso sia difficile. Dottor Pace, secondo me, ha più dati tecnici che può dare. Ha una statistica una risposta più, come dire, di prova sul campo. Intanto Carla ci scrive anche: sono assicurata, però quando succede qualcosa trovano sempre dei cavilli per non pagare. Dottor Pace, insomma, dovete lavorare anche un po' in quanto a reputazione, quanto ci risulta di fronte a molti assicurati che sicuramente saranno accontentati e pienamente risarciti, c'è invece qualcuno che incappa sempre in qualche cavillo. Vuole partire dalle piscine, però? Sì, beh, partiamo dalle piscine, anche se partiamo da un caso molto molto specifico. Esatto. Nel senso, diciamo che quel tipo di ente è normalmente escluso dagli eventi atmosferici in quanto mette assieme due cose, no? È un ente all'aperto ed è un ente è costruito in materia, diciamo, chiamiamola materia plastica, insomma, ecco, per cui rientra proprio tra quelle che sono le tipiche esclusioni di polizze. Attenzione però che nelle polizze sono stati poi inseriti tutta una serie di enti che normalmente sono proprio all'aperto e sono anche diciamo in qualche modo esposti a distruzione dell'evento atmosferico. Mi riferisco a vetrate, lucernari, tutto questo però con una partizione specifica, e quindi ovviamente ci si è presi, l'assicuratore si è preso carico, no, di questi enti molto molto diffusi, appunto, che possono essere i serramenti, le vetrate, i lucernai. Non c'è nessuno che mi risulti che ad oggi si sia preso in carico la copertura delle piscine in policarbonato. Quindi il consiglio che do è quello di trovare proprio una partizione all'ascoltatore, una partizione con l'assicuratore al fine di mettere in copertura questo tipo di ente specifico. Magari vi mettiamo anche in contatto, così se volesse farsi una chiacchierata un po' più approfondita, Massimiliano, forse è il caso lasciarla da parte rispetto a Salvadanaio. Senta, invece, ecco, lei una cosa, direi che però l'ascoltatore ha toccato invece un argomento molto importante, che è quello degli eventi atmosferici, ed è un fenomeno climatico che è letteralmente esploso. Adesso il terremoto avrà una certa percentuale statistica di verificarsi, la nevicata forse è un po' più frequente. Non solo la nevicata, direi la grandinata, direi la tromba d'aria, direi tutti i cosiddetti eventi atmosferici, quindi il vento di forte intensità. Beh, in Italia ce ne saremo accorti tutti, il clima si può dire che sia già cambiato. Non ci sono più le mezze stagioni, mettiamola così. Infatti non stanno aumentando tanto le giornate di pioggia quanto la concentrazione, no, della pioggia, cioè in una giornata, in un accadimento accade che si sommino le piogge che prima accadevano in 10 giorni. Insomma, quindi chi è particolarmente vulnerabile a questi fenomeni perché vive in determinate zone, per esempio, dottor Pacile, suggerisce rivedete la vostra protezione? Beh, direi di sì, assolutamente. Completamente di quello che aveva detto l'altro ospite, aggiungerei questo. È giusto che ognuno faccia i conti con le proprie tasche, un po' partendo dalle grandi coperture, no? Per poi arrivare anche alle coperture di assistenza, le coperture che poi rendono veramente complete queste polizze, no? Quindi partiamo sempre dai grandi eventi. Vediamo cosa costa la copertura dei grandi eventi, quindi parliamo dell'incendio, degli eventi atmosferici, parliamo del furto, degli eventi che possono in qualche modo mettere in crisi la tenuta dei miei risparmi, e poi se non siamo in grado di sopportarlo andiamo sulle coperture di assistenza. Ecco, questo è un consiglio proprio da gestore dei rischi che io do agli assicurati. Ecco, partiamo sempre dall'evento non sopportabile, dall'evento che metterebbe in crisi il nostro bilancio familiare. Quindi partiamo proprio, come dire, dal peggio che potrebbe capitare in assoluto e poi scendiamo. Benissimo. Intanto altri ascoltatori. Elio da Modena, rapidissimo, buongiorno. Buongiorno a lei, Deborah. E volevo chiedere, anzi ai suoi ospiti, volevo fare una domanda di questo tipo. Io ho una palazzina di 4 appartamenti degli anni 60 e naturalmente è stata ristrutturata completamente. E volevo chiedere se sarebbe utile far fare prima una stima del valore della casa, del nuovo valore della casa, per poi fare un'assicurazione, una copertura assicurativa più adeguata. Certo. Oppure una cosa che di lasciarla fare direttamente. Se è l'assicurazione che si occupa pienamente. Dottor Bragolusi, vado direttamente a Pace, oppure secondo lei, insomma, il nostro ascoltatore come si potrebbe muovere? Sicuramente cerca una risposta tecnica, quindi sì, sicuramente infatti. Dottor Pace può Pace, dare... cosa dice di fare l'ascoltatore? Pensa l'assicurazione di inviare i periti per stimare il valore della casa, adesso ha un valore nuovo perché è stata completamente ristrutturata, oppure deve chiamare dei periti indipendenti? Ha usato la parola tecnica, valore a nuovo, ecco, la stima che va fatta è la stima di ricostruzione integrale del bene ricostruito a nuovo con l'esclusione del valore dell'area, quindi soltanto i materiali, diciamo, e la manodopera della ricostruzione. Ecco, questa è la stima che va fatta, quindi cosa costerebbe oggi ricostruire, se fosse totalmente distrutta, la palazzina appena, mi sembra di capire, ristrutturata dal nostro ascoltatore. Ecco, questa è la stima che va fatta. Direi che vista il valore, insomma, si parla di una palazzina non grandissima, ecco, quindi credo che il nostro ascoltatore possa ricostruire il valore di ricostruzione, che mi raccomando non è il valore di acquisto o di mercato, ma è il valore di ricostruzione tranquillamente egli stesso, insomma, ecco, comunque affidandosi ad una consulenza, se non fosse in grado, alla consulenza di un geometra. Allora, io purtroppo non ho grazie dottor Pace, non ho molto tempo ancora per far intervenire altri ascoltatori, perché in realtà volevo chiudere, adesso devo anche mandare una pillola sulla storia dell'economia mondiale che esce domani con il Sole 24 ore. Un ascoltatore mi dice molto chiaramente: cara Radio 24, hai fatto un'ora di spot, immagino intenda il settore delle assicurazioni. A noi, Marco, non interessa per niente fare questo, perché non è il nostro lavoro. Noi quello che vorremmo solo cercare di far capire ai nostri ascoltatori è che forse una copertura assicurativa è bene averla. Abbiamo detto anche con estrema chiarezza, Bragolusi magari se vuole supportarmi in quest'ultimissimo minuto di tempo che ci rimane, il tema è costruire un buon rapporto con la compagnia, quindi cercare di essere molto chiari rispetto a quello che si vuole e cercare di capire anche se il rapporto qualità-prezzo, poi del rapporto che si stabilisce, è corretto. Certo, non abbiamo, come dire, la ricetta in mano per stabilire se questo lo abbiamo raggiunto di risultato, però 30 secondi di suggerimenti finali? I 30 secondi sono sicuramente fare le coperture assicurative. Quello che le compagnie devono affrontare è una inconsapevolezza, perché quello che diceva il dottor Pace è correttissimo. La compagnia ti deve preservare il tuo patrimonio, quindi avere le coperture, le giuste coperture non ripetitive. Attenzione al discorso che spesso e volentieri nei portafogli si ritrovano le medesime coperture che poi non vengono mai attivate. È importante. Le compagnie svolgono un ruolo fondamentale. Occorre che le compagnie, insieme alla propria struttura distributiva, si facciano carico di fare una formazione, che non è così facile, di sensibilizzare maggiormente il consumatore. Allora magari ci ritorneremo, anche cercando di far capire qual era l'orientamento della nostra trasmissione, non certo quello di fare spot a nessuno. Allora, vi ricordo che da domani potete trovare in edicola con il Sole 24 Ore il terzo volume della storia dell'economia mondiale, dal titolo L'Europa al centro del potere, le conquiste coloniali e i ricchi traffici transoceanici. Sentiamo una breve pillola tratta da questo volume. Non è possibile studiare l'economia andina al di fuori dei sistemi di parentela, poiché erano proprio questi a rendere possibile la reciprocità che era alla base di tale economia. I membri di una Yullu, la famiglia estesa, erano vincolati da numerose obbligazioni, stabilite all'interno di un contesto rituale. Le reciprocità sorti in questo modo giungevano ad abbracciare tutti gli aspetti della vita, il che spiega perché, quando si parla della popolazione andina, lo si faccia attraverso il ricorso ai modelli comuni. Gli europei hanno inteso la comunità come proprietà collettiva dei beni, specialmente della terra e delle greggi di camelidi. Quel che esistette nelle Ande fu un lavoro comune che generava una distribuzione equa dei beni prodotti e non una proprietà comune. I cronisti coloniali e gli storici moderni non hanno saputo staccarsi dalla nozione classica europea della proprietà. Di Franklin Pease. Ho subito 5 furti di valigie dall'auto in 10 anni, non ero assicurato, adesso alcune compagnie non vogliono fare polizze per questo tipo di rischi. Perché? È una bella domanda, non riusciamo ad affrontarla questa mattina. Saluto però lo sfortunato ascoltatore, non le lasci più in macchina però a questo punto, se le capita così di frequente. Io ringrazio Stefano Pace di Generali per essere stato con noi, buona giornata dottor Pace, a presto. Grazie a lei, a presto. E grazie anche a Giovanni Bragolusi di Deloitte per essere stati con noi, ritorneremo sulla questione della protezione della casa. Intanto la Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.